cosa è questa commedia? Eccoci in danza, secondami, cor mio. Non c'ho speranza. Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama. Quel ritorno non vi è più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si sono già stabilite. Or a voi tocca costei che un vostro dono illibata serbò coprir di questo simbolo d'onesta candida veste. Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abulendo a natura al dover lor dritti rendo. Evviva, evviva, evviva! Che virtù! Che giustizia! A voi prometto compier la cerimonia, chiedo sol breve indugia. Io voglio in faccia dei miei più figli e con più ricca pompa rendervi a piene felici. Marcellina si trovi. Andate, amici!